9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 25 di febbraio. La domanda che ci poniamo oggi, tra le tante per tentare di continuare a informarvi su quello che avviene in Libia dopo giorni di notizie disastrose, ma in cui non si riusciva a discernere tra quello che fosse davvero comprovato e quello che non lo era davvero, per esempio le azioni aeree, per esempio le stragi, le tombe, il numero di vittime, le poche fonti non sono in grado di far capire quanto questa tragedia innegabile comunque abbia proporzioni contenibili, e per giorni le diplomazie internazionali si sono interrogate sulle proporzioni vere del residuo di probabilità per Gheddafi e il suo regime di rimanere in controllo. La domanda che ci poniamo oggi è, andando subito al punto, se non sia il caso di porsi la questione di un intervento umanitario ma anche militare di interposizione per far cessare quello che sta avvenendo, partendo dal presupposto che in Libia, a differenza dell'Egitto, dove i militari hanno apparentemente ma solidamente in mano la transizione nuova presidenziale, a differenza della Tunisia dove comunque esistevano ed esistono istituzioni, a differenza di molti altri paesi, da oltre 40 anni il regime di Gheddafi ha lavorato per l'annullamento di fatto di un solido tessuto statuale al di fuori della rappresentanza tribale, che da decenni non esercita però controllo sugli apparati. Lui ha il denaro del petrolio, lui ha questa legione straniera di cui abbiamo letto, ma insomma, in queste condizioni, per evitare uno stato fallito e per evitare tutto quello che ne potrebbe conseguire, è il caso che la comunità internazionale pensi, dopo tanto bilancio critico negli ultimi anni degli interventi in Iraq, in Afghanistan, dopo tante polemiche e tanto ripensamento sulla Freedom Agenda di Bush, pensi di fronte a questo caso della Libia a un intervento umanitario ma anche militare in Libia, la comunità internazionale, le Nazioni Unite, è a questo che deve pensare? Paul Wolfowitz, l'ex sottosegretario di Stato dell'epoca neocon al potere negli Stati Uniti sotto i repubblicani, ha scritto il 22 sul Wall Street Journal che in realtà ci sono ben 10 azioni che si possono mettere in atto nei confronti del regime libico per evitare, per uscire da questo stadio in cui tutti stanno con le braccia conserte e i giornalisti entrano e ci informano di quello che avviene, ma la comunità internazionale fa inutili appelli alla misura rivolti a Gheddafi. Tra queste 10 azioni alcune erano militari, una no fly zone immediata da parte della NATO, un'altra azione esplicita era quello di un intervento a sostegno delle aree già liberate, la terza era la consegna di armi alle autorità o a chi rappresenta l'autorità transitoria nei territori liberati, insomma un'agenda interventista. Oggi trovate su molti quotidiani analisi approfondite e dettagliate su queste ipotesi. Il Foglio ci apre per esempio: occupare Tripoli, che può succedere se la NATO decide di sbarcare in Libia? Noi ci poniamo questa domanda, vogliamo sapere come la pensate voi e innanzitutto i nostri ospiti. Cominciamo con Roberto Bongiorni, che è l'inviato del Sole 24 Ore dalla Libia e a Bengasi, e io chiedo innanzitutto a Roberto, prima di una sua risposta a questa domanda, innanzitutto dov'è, cosa vede, quale sua la sua valutazione a oggi rispetto ai giorni precedenti. Buongiorno Roberto, a te. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, ci troviamo a Bengasi, ormai è quasi il 10° giorno di rivolta. La città è completamente sotto il controllo delle forze rivoluzionarie che con i loro comitati popolari cercano di supplire, diciamo, l'assenza di un governo che in verità non c'era mai stato. Come hai detto tu, Gheddafi aveva imposto un pseudo-stato, non un pseudo-stato privato. Dunque, a Bengasi, ripeto, la situazione è apparentemente tranquilla. Certo, le milizie, i comitati popolari sono costituiti da molti giovani armati, molto esuberanti, per cui continuano anche a sparare in aria, quindi bisogna anche stare un po' attenti. La rivolta comunque si sta espandendo, abbiamo già visto dei video che sono stati consegnati, è stata presa, sembra una notizia quasi sicura, la città di Misurata, a meno di 200 km da Tripoli, e fonti qua da Bengasi, dove si trovano i quartieri generali della rivoluzione, possiamo definirla così, sono pronti, dicono, a sferrare un attacco finale sulla capitale Tripoli nei prossimi giorni. Ripeto, la Cirenaica è completamente sotto il controllo dell'opposizione, vi sono però delle sacche di resistenza dei mercenari che sono ancora nascosti in qualche valle attorno alla città, quindi si odono ogni tanto delle sparatorie. Dal porto di Bengasi comunque continuano le evacuazioni, anche queste sono organizzate da questi comitati popolari e adesso si attende questa famosa offensiva. Dal tuo punto di vista, per come conosci la Libia e come la vedi in questi giorni, avrebbe senso un'azione umanitaria ma anche militare di interposizione e garanzia della transizione, oppure non ce n'è bisogno? E in quel caso basterebbe una no-fly zone aerea? Bisognerebbe pensare a una presenza sul terreno? Beh, queste sono ipotesi a cui è difficile rispondere. Posso rispondere io con quello che dicono gli organizzatori che si sono posti a capo di questa rivolta senza leader. Loro invocano sì un aiuto umanitario, più medicinali, più diciamo, assistenza da parte di Europa e Stati Uniti, però ormai sono convinti di riuscire a eliminare il regime da soli con le loro forze. L'impressione che si ha da qua è che i comitati sono sì organizzati, ma perché ora sono i diversi clan e tribù hanno di fronte un nemico comune, cioè una sorta di coalizione per eliminare questo loro nemico. Il problema è che cosa succederà una volta che questo nemico cadrà, rimarranno uniti o frammentati. Io ricordo che i militari hanno aperto i magazzini, hanno distribuito le armi un po' a tutti e adesso devono cercare di raccogliere, lo stanno facendo ma non con troppo successo. Ecco, il problema è che cosa avverrà dopo. Questo paese che produce 1,5 milioni di barili al giorno, ma le prime riserve di petrolio africane, 44 miliardi di barili, come sarà governato? Da chi? Ecco, sulla domanda della comunità internazionale ognuno risponde un po' a modo suo, anche perché questa rivoluzione, ripeto, non ha leader, non ha figure di vertice. Secondo te una stima ragionevole, al netto delle voci che corrono, ma da quello che puoi apprezzare per come conosci il paese, è che il residuo controllo di milizie e forze armate di Gheddafi lo rende un osso duro nel tempo o lo rende semplicemente uno sopravvalutato nella sua capacità di resistenza e di vittime soprattutto nei prossimi giorni? Dunque, Gheddafi è una persona, è un personaggio imprevedibile. Però resta un fatto, giorno dopo giorno, e questo lo abbiamo constatato anche noi sul campo parlando con i vertici militari che hanno disertato, dicevo, giorno dopo giorno il regime perde pezzi, si frammenta. Questo cosa vuol dire? Gheddafi dispone delle milizie personali, un esercito vero non l'ha mai costituito, aveva delle milizie personali ed era ricorso a, appunto, in altre occasioni anche fuori dalla Libia, a milizie africane. Cosa vuol dire questo? Che se continuerà a perdere pezzi dopo giorni arriverà a un limite in cui la sua debolezza è tale che molte persone lo abbandoneranno completamente. Però bisogna vedere quando raggiungerà questa soglia di debolezza. Io ripeto, ogni giorno dopo giorno i militari, l'esercito, ma anche molti poliziotti, la Guardia Nazionale, sempre più ufficiali, si schierano dalla parte dei rivoltosi. Secondo i giornali iraniani, anche il figlio di minore Saif al-Arab, proprio a Bengasi, dicono i giornali iraniani, stanotte si sarebbe unito ai rivoltosi. Non so se questo sia vero, ecco, ma leggiamo sulle agenzie. Sì, sì, questa è una notizia che però non mi sento di confermare, perché preferisco qui, le voci si rincorrono le smentite e le smentite si rincorrono le voci, quindi preferiamo tutto sommato cercare di vedere con i nostri occhi le cose e di apprendere le fonti con una certa cautela, quindi questa notizia non posso confermarla. Posso però confermare, dicevo, da quanto ho appreso parlando e vedendo, che questa coalizione si sta compattando, sta avanzando anche dalla parte occidentale, dal lato tunisino. L'impressione è che più Gheddafi reagisce con azioni brutali verso la popolazione civile, più ha per conseguenza l'effetto contrario, più la popolazione si coalizza, ormai tutti dicono non è una questione di se ma di quando cadrà il regime. E qui, come dicevi tu, come sottolineavi tu, poi il grande punto interrogativo è dopo che cosa accadrà. Sarà l'opportunità che intervenga una forza di interposizione, una missione di pace, di peacekeeping? Questi sono grandi interrogativi e, ripeto, l'assenza di un interlocutore preciso e identificabile qua in Libia renderà le cose molto difficili. Ora, due sono gli appuntamenti della comunità internazionale di maggior rilievo oggi. Il primo è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a cui Francia e Gran Bretagna insieme sostengono una risoluzione fondata su embargo militare, rafforzamento di aiuti umanitari e rafforzamento di sanzioni di ogni tipo a ciò che resta il regime di Gheddafi. Come vedete, alle Nazioni Unite non c'è all'ordine del giorno un intervento di cui stiamo parlando oggi. C'è una riunione però anche di emergenza della Segreteria Generale della NATO con Fogh Rasmussen prevista in giornata, e in quel caso bisognerà guardare con attenzione a qual è il dispositivo tecnico, umanitario certo anche, ma tecnico anche militare, che la NATO e i paesi membri della NATO propongono ed esaminano insieme in sede riservata di rafforzare nei confronti di ciò che avviene in Libia. Roberto, buongiorno, io non ti voglio gravare, noi proviamo più tardi dopo le 9.30, 9.40, vediamo se puoi risponderci per ulteriori aggiornamenti, ma intanto ti saluto e ti ringrazio. Grazie, e abbiamo due altri ospiti con i quali esaminare insieme la domanda che vi abbiamo posto e che abbiamo posto a loro, cioè quella di un eventuale intervento di che tipo, alla luce delle critiche di ciò che abbiamo imparato sul campo e nella diplomazia nel dopo 11 settembre, quando si partì tutti lancia in resta con l'idea di espandere la democrazia, istituzioni liberali occidentali nel mondo. Come sappiamo, le illusioni sono un conto, le buone intenzioni sono un conto, ciò che la realtà, i sedimenti culturali, le evoluzioni dei paesi poi propongono e consentono di realizzare sono un altro, e il bilancio, diciamo, è un bilancio critico per tutte le persone intelligenti. Abbiamo con noi Carlo Cabigioso, che è l'ex comandante della KFOR, l'ex responsabile del comando operativo di vertice Interforze, consulente militare della NATO, un ufficiale alpino, ha comandato il battaglione Susa, che mi sta molto al cuore. Buongiorno e grazie a Carlo Cabigioso. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E un altro ex militare di livello, Carlo Gian, che è docente di studi strategici presso la LUIS, Guido Carli, presidente del Centro Studi Geopolitica. Grazie anche a Carlo Gian. Buongiorno. Allora, inizio da Cabigioso. Dal suo punto di vista, ha senso parlare Nazioni Unite e NATO di un eventuale intervento umanitario, sì, ma fatto anche sul campo, non solo sui cieli, attraverso quindi una presenza coordinata internazionale militare volta a interporre forze, evitare, far cessare la strage, in qualche maniera essere sul campo anche, sia pur non per esercitare il ruolo di primo piano, ma per garantire la transizione, per avere un ruolo, insomma, di fronte a istituzioni statuali che sembrano non esistere e quindi inevitabilmente a quel punto sulla via di successivi conflitti e implosioni, dal quale potremmo rischiare molto noi, ma molto anche i libici. Lei che pensa, Cabigioso? Beh, io direi che senz'altro ha senso parlarne, però parlarne è un conto e poi farlo è tutto un altro. Noi usciamo dalle esperienze dell'Iraq e dell'Afghanistan, in cui abbiamo visto che dopo che ci sono stati questi cambiamenti di regime, è inevitabile che tra la popolazione si crei un disordine che in qualche modo rischia di portare al collasso il paese. Però per un intervento efficace bisognerebbe ricorrere a forze dei paesi occidentali, e i paesi occidentali potrebbero essere visti come neocolonialisti in una situazione di questo genere. Quindi quello che bisognerebbe fare prima di tutto è ottenere un mandato forte da parte delle Nazioni Unite e cercare di coinvolgere in queste attività, operazioni di stabilizzazione, altri paesi arabi, perché altrimenti potrebbe succedere che per il primo momento ci sia anche la possibilità di intervenire, ma poi immediatamente dopo si scatena quel sentimento di antipatia verso chi entra nel proprio paese con alle spalle una storia coloniale, oppure anche più recente di interventi in altri paesi islamici con attività qualche volta criticabili. E del resto anche la presenza nella NATO di un alleato come la Turchia guidata dal governo di Tayyip Erdogan rispetto al passato dell'impero ottomano della stessa Libia non è in posizioni tali da essere visto nel caso in cui ci fosse un contingente turco, diciamo, di forte visibilità all'interno di un dispositivo congiunto, di essere visto o considerato dai libici in maniera molto diversa dagli italiani, o sbaglio? Penso proprio che sia come dice lei. Certamente noi abbiamo fatto delle missioni di peacekeeping in cui abbiamo avuto contingenti degli Emirati Arabi, abbiamo avuto contingenti del Marocco, abbiamo avuto contingenti giordani, abbiamo avuto battaglioni egiziani. Se si riuscisse a spremere da questi paesi una partecipazione a una fase di stabilizzazione della Libia con loro forze, certamente la cosa avrebbe un altro aspetto. Ciò non toglie che la NATO o l'Unione Europea potrebbero contribuire con organismi di comando o con organismi di consulenza per cercare di usare le nostre esperienze anche in un'attività congiunta con questi paesi arabi. Esistono già queste strutture, a Vicenza c'è il comando delle Police Stability Units dell'Unione Europea, abbiamo in Italia i carabinieri della MSU, i francesi con la loro gendarmeria, la Guardia Civile, la Guardia Repubblicana Spagnola e Portoghese, paesi che in qualche modo comunque sono abbastanza vicini alla Libia da poter essere accettati per un periodo transitorio. Carlo Jean, le faccio la stessa domanda con un'aggiunta di considerazione sul rischio che in questi giorni viene valutato, ma nessuno riesce a stimare davvero quanto realistico, e cioè che nella Cirenaica, la parte più libera, la parte che ha opposto la più dura resistenza tanto agli italiani quanto agli ottomani, ma anche al regime di Gheddafi, nella eventuale scissione, nell'implosione di quel che resta o di quel che mai è stato della statualità libica, possa radicarsi una forma di islamismo più estremo, qualche un vero e proprio califfato, dice qualcuno, insomma ciò che fino a questo momento in realtà sulla sponda sud del Mediterraneo è stato sempre un rischio politico interno ai regimi, ma mai una vera e propria espressione presente e radicata, visto che gli algerini, ohimè, hanno fatto una guerra civile con centinaia di migliaia di morti, in cui il regime militare algerino ha tentato di espiantare con la forza l'islamismo salafita. Anche alla luce di questo rischio di poter essere fraintesi con una presenza militare occidentale e internazionale, lei come pensa che questa azione abbia senso parlarne, abbia senso pensarci e metterla, oppure no? Ma a mio avviso non ha proprio nessun senso. Anche del contingente turco, per esempio, mi sembra che sia del tutto cervellotico il pensare che possa intervenire la Turchia, quando Turchia ed Egitto si competono, sono in competizione per il predominio nell'area, no? Nel Medio Oriente e così via. E sicuramente, per esempio, l'Egitto sarà molto preoccupato del fatto dell'evoluzione della situazione in Cirenaica. E in Cirenaica, in cui ci sono dei movimenti religiosi abbastanza radicati e elementi religiosi che sono collegati tra parenti con i fratelli musulmani egiziani e che potrebbero subentrare nella seconda fase, diciamo così, di questo cambiamento politico, cambiamento di regime in Libia, potrebbero subentrare al potere. Ricordiamo una cosa, le rivoluzioni non si sa come iniziano, però generalmente finiscono in maniera completamente differente da quelle che iniziano. Generalmente iniziano con masse, adesso piuttosto simpatiche, di questi giovani col Twitter, col Facebook e così via, però poi chi prende la direzione saranno minoranze molto organizzate, molto determinate, che nella zona possono essere fornite solamente dai radicalismi islamici. Mi pare un giudizio sul quale riflettere. Ora pubblicità. Eccoci tornati in studio. Tra gli ultimi aggiornamenti dalle agenzie dalla Libia, Al Jazeera informa che il procuratore generale, il vertice del potere giudiziario, certo non indipendente ma comunque libico, Abdelrahman Al-Rabab, si è dimesso, con un messaggio che è stato diramato dalla stessa Al Jazeera di protesta per il sangue versato da Gheddafi del suo stesso popolo. Un flash viene da Bruxelles: l'Unione Europea ha dichiarato che prenderà delle misure per far uscire la Libia dalla violenza al più presto, qualunque cosa questo voglia dire, lo vedremo nell'evoluzione della giornata. E seguono anche da Budapest, dove era in viaggio ordinario in Ungheria, la dichiarazione del segretario generale della NATO Rasmussen, che è tornato sulla riunione di emergenza della segreteria generale della NATO che si tiene oggi pomeriggio, dicendo: prima della riunione sentirò tutti i ministri della difesa per vedere tecnicamente a quale livello di coordinamento essi propongano di portare le misure che esamineremo in concreto nella riunione della segreteria generale di emergenza della NATO nel prosieguo del pomeriggio. Sentiamo come la pensano alcuni ascoltatori sul tema che stiamo tentando di affrontare. Al di là della condanna e al di là dell'assistere impotenti a notizie spesso di cui non siamo in grado di valutare neanche la reale portata in tutti questi giorni, è il caso di mettere mano a un intervento della comunità internazionale, anche militare magari, per far cessare la strage, per garantire la transizione, l'interposizione e anche per evitare che magari ci troviamo un califfato lì vicino, sempre che questo rischio esista davvero. Sentiamo come la pensano alcuni di voi. Cominciamo da Eride, che ci chiama da Viterbo. Prego Eride, dica. Buongiorno dottor Giannino. Buongiorno dottor Giannino. Dica, buongiorno. Allora, io sono una figlia nata a Tripoli. Tripoli, con mio padre a 4 anni è dovuto andare lì con il padre ingegnere, quindi con mio nonno ingegnere. Io sono nata, cresciuta, ho fatto le scuole lì, quindi conosco la situazione araba lì. Poi sono dovuta rimpatriare perché Gheddafi ha fatto quel famoso colpo di Stato, mandato via Idris, eccetera, eccetera. Però vi dico una cosa, che Gheddafi, pur essendo un tipo stravagante, ma lui ha tenuto tante etnie, tante diciamo così personaggi insieme, uniti per tanti anni, addirittura nel 1967-68. È un uomo intelligente, stravagante, tutto ciò che volete. Noi abbiamo un filo diretto con loro, loro hanno praticamente per noi simpatia, non è vero che tu soldi eccetera. Andare lì, come vogliono la comunità europea, armati, fare guerra, fare la rivoluzione, toglierlo di mezzo, è sbagliato. Fare embargo sì, mandargli le armi, anche in Italia andare lì e colpirlo, è assolutamente no. Tanto lui è braccato, sicuramente lui si dovrà dimettersi, dovrà sparire. E tutto sommato quest'uomo fino a poco fa ha voglia che dicono qui in Italia qui e qua là, che non doveva fare il nostro presidente tutti quei salamalechi, ma allora si poteva pensare una cosa del genere, che si poteva verificare tutto questo? No? Chiarissimo, Erde dice embarghi sì, interventi no, tutto il mondo era in fila comunque per avere buoni rapporti. Terza cosa, è stato abile per molti decenni, questo sì, però insomma è anche un uomo che è stato abile nel senso che ha sempre messo sulla bilancia della storia dei rapporti anche il prezzo del sangue, nel senso che ha finanziato destabilizzazione per tutta la fascia subsahariana, dal Chad al Mali, al Niger, al Sudan, e dopodiché ha finanziato per anni il terrorismo. Voglio dire, si sono ripresi indietro dalla prigionia in cui era il responsabile di Lockerbie, mentendo sul fatto che moriva di cancro, non era vero, e lo hanno accolto come un eroe di Stato, e lì c'erano stati 270 vittime, ma insomma ha utilizzato con grande cinismo tutte le armi di pressione militare, di destabilizzazione e del terrorismo che c'erano nella panoplia degli diversi rapporti dal post-colonialismo nordafricano rispetto all'Occidente, diviso e interessato al petrolio, per carità. Però, dice Eride, nessun intervento diretto. Andrea, dalla provincia di Como, che dice? Sì, buongiorno. Ma io ero anch'io uno di quelli che c'erano nel 70 quando Gheddafi ha preso il potere. Mio padre lavorava a Bengasi, io avevo solo 3 anni, e per me in questi giorni sono giornate un po' particolari, perché rivivo un po' quei momenti, così come li rivivo dai ricordi dei miei genitori che hanno subito la confisca dei beni e sono stati rispediti a casa. Certo, la nostra condizione non era quella di profugo, così come siamo abituati a vederli e a sentirli oggi, ma tale è dal punto di vista almeno formale, perché io sono stato dichiarato insieme a mio padre e mia madre profugo dalla Libia. Sicuramente siamo rientrati in una situazione non di emergenza, anche perché mio padre lavorava al Banco di Roma allora e siamo stati assistiti anche dall'azienda. Sicuramente io... Ha già detto tutto lei su Bengasi, su Gheddafi, sulla sua figura un po' controversa, molto equivoca, è stato detto anche di quanto sia stato equivoco forse l'atteggiamento anche del governo italiano nei confronti di una persona che comunque meritava forse più attenzione e meno fiducia, ecco, di quanto sia stata data. E oggi come oggi sull'ipotesi di intervento lei che dice? Io dico che sto col popolo, perché il popolo libico è un popolo che è sempre stato amico degli italiani e anche noi mi sento di dire che lo siamo stati in passato, nonostante le pagine un po' scure della nostra storia insieme. Viviamo in questi giorni proprio il ricordo anche dell'Unità d'Italia, di quello che è costato fare questa... Stare col popolo totale. Vuol dire stare con le braccia incrociate dicendo ne vengano a capo loro della transizione oppure fare qualcosa di più? Stare col popolo significa attivare secondo me tutte quelle azioni pacifiche, quindi dal punto di vista diplomatico che consentono che possono consentire alla Libia una transizione, perché il problema fondamentale, la differenza tra la Libia, la Tunisia e l'Egitto sta nel fatto che la Tunisia e l'Egitto secondo me sono più filo occidentali, quindi quando scende in campo l'esercito non può sparare sulla folla. No, è chiaro, hanno studiato soprattutto in Tunisia dei licei francesi solidamente coerenti alla cultura dell'ex potenza che esercitava il protettorato. In Egitto gli studi sono rimasti, è vero che nell'Egitto negli ultimi 20 anni l'università è molto cambiato, ne ho avuto la testimonianza diretta, ma tuttavia è inevitabilmente più vicino per la formazione innanzitutto delle elite militari da cui provenivano Nasser, Sadat e naturalmente Hosni Mubarak e tutta la sua cerchia, è molto più vicina all'Occidente. In Libia in effetti la storia è molto particolare ed è completamente diverso il sentire che è stato alimentato per decenni e decenni contro gli ottomani, contro gli italiani per tutto il Novecento e poi naturalmente da Gheddafi dopo la parentesi di Idris. Che dice invece Marco da Milano? Che pensa Marco? Intervento sì, no o solo embargo oppure neanche quello? Marco? Sì, eccomi, buongiorno Gianni. Buongiorno. A proposito di intervento, volevo approfittare della presenza dei tecnici militari che avete in studio per chiedere quale potrebbe essere la composizione di un dispositivo del genere, che secondo me, diciamo, sono stato nell'esercito anch'io, ma ora da profano vedo abbastanza problematica. Perché secondo me dovrebbe prevedere un grosso contingente di terra soprattutto per la protezione dei pozzi petroliferi, anche perché non dimentichiamoci che per quanto obsoleto e soprattutto di carattere di provenienza sovietica, comunque l'esercito di Gheddafi o quel che ne rimane ha ancora mezzi corazzati, anche se non di nuovissima generazione, e un discreto armamento pesante. Poi il problema è, secondo me, è che in una situazione dove sul terreno mancano al momento degli interlocutori, per quanto se ne sa, si rischia una mega Somalia. Sì. E l'ultima cosa che volevo dire invece è un piccolo capriccio della storia: se ci fosse intervento militare a breve sarebbe esattamente più o meno nel centenario della guerra italo-turca 1911-2011. Sì, in effetti sì, ma al di là del... io penso che sia la penultima che lei ha detto, quella, il rischio Somalia, però il rischio Somalia forse c'è anche a prescindere dall'intervento, e questa è la difficoltà per la comunità internazionale in queste ore da valutare. Tra l'altro, una particolarità e una curiosità, non solo una curiosità ma per i mercati finanziari non solo una curiosità, dopo il blocco che giorni fa abbiamo duramente criticato da questi microfoni di Borsa Italiana Spa e dopo il blocco di ieri per un'ora all'apertura del CAC 40 alla Borsa di Parigi, oggi è il turno della Borsa di Londra con le quotazioni interrotte a causa di un problema tecnico. Evidentemente noi avevamo pensato male per l'interruzione di oltre 6 ore per il momento imbattuta della borsa italiana, però effettivamente diciamo che i server sui mercati finanziari europei funzionano male in questa crisi libica. Chiedo a Vittorio Emanuele Parsi, che si è collegato con noi, che segna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, uno dei più fini osservatori specializzati in vicende internazionali del nostro nostro paese. La risposta che dà lui alla domanda che stiamo tentando di affrontare, un intervento sì, di che tipo, anche sul campo, solo militare nei cieli, nessuna di queste due cose, solo embargo, stiamo a vedere, fidandosi del fatto che comunque le forze interne delle tribune avranno ragione di Gheddafi a tra poco. Lei come la pensa, Parsi? Ma penso che l'intervento militare, come diceva lei, sono così per interposizione, innanzitutto bisogna sapere interposizione tra chi e chi. Quindi sarebbe un intervento militare di peace enforcing, sarebbe un intervento militare che o prende partito per qualcuno o diventa semplicemente mettere dei bersagli in mezzo. Prendere partito è molto difficile, perché con tutta la simpatia che va alla rivolta del popolo libico, noi non sappiamo quali sono gli attori che andiamo a sostenere. Il rischio grosso evidentemente è che poi ci troviamo a dover gestire o ci autoresponsabilizziamo su una transizione, o che iniziamo un intervento in un lato e poi ci siamo coinvolti, in questo senso il rischio somalo, cioè di non avere un exit strategy, di non avere un piano su cosa fare dopo. C'è il rischio dall'altra parte che quando noi arrivassimo polarizzeremmo alcuni degli oppositori di Gheddafi, perché c'è un rivolto banale, coloro i quali si ispirano all'Al-Qaeda sono contro Gheddafi, ma sarebbero altrettanto contro di noi. Rischieremmo di avere un intervento che potrebbe magari avere un senso nell'area locale, ma potrebbe complicare tutti i nostri rapporti con l'area regionale, perché per nulla da nostra parte è detto che un ritorno di potenze occidentali nel Maghreb o nel Medio Oriente sarebbe non visto come un episodio di neocolonialismo per le popolazioni che hanno la pelle ancora urticata dalla nostra presenza. Per cui io, che solitamente non ho nessun tipo di timidezza nel sostenere l'uso della forza quando la forza è necessaria, in questo caso vedo più problemi che prospettive. Davvero vedo il rischio di un interventismo spinto da nobili sentimenti che ci riporta in una condizione di tra la Somalia e l'Iraq, per così dire, non in termini di chissà quale perdite nei nostri confronti, ma in termini di assenza di una prospettiva. Noi non possiamo garantire la transizione in Libia, non possiamo accompagnare i libici verso qualche cos'altro, se non altro perché se quel qualche cos'altro poi non ci piace, noi cosa facciamo? Garantiamo la transizione che non ci piace? O ci togliamo perché non ci piace? Cioè, sarei molto attento su queste cose. O veniamo inevitabilmente accusati ancora una volta di aver mandato l'intervento esclusivamente per le riserve dei 45 miliardi di barili di petrolio. Ora, un ultimo giro di domande sulla natura, com'è cambiata questa natura di questi interventi? Noi siamo molto meno sicuri di 10 anni fa, questo è il punto, meno sicuri di noi stessi, voglio dire, non dico dal punto di vista della cornice internazionale, e quindi la domanda che farò a Cabigioso e a Jean e a Parsi sarà proprio su questo. Se noi facciamo un bilancio di che cosa sono stati gli interventi umanitari che ci hanno visto con le diverse agende, soprattutto dei presidenti americani, credere di proiettare nel mondo una diversa concezione di come si concertava a livello internazionale interventi anche militari, ma soprattutto volti a migliorare il benessere, le condizioni di regimi rappresentativi, lo sfruttamento delle risorse e così via. Il bilancio più o meno è questo, che se pensiamo a Bosnia e Somalia, in realtà lo abbiamo fatto solo sostenuti a metà e male dalle Nazioni Unite. Se pensiamo a Ruanda, il genocidio lì c'era, e come se c'era, eppure poi l'intervento è arrivato troppo tardi, quando tutto praticamente era, non dico già successo, ma quasi. Se pensiamo poi a Kosovo, Sierra Leone, Timor Est, Afghanistan, il bilancio è un bilancio, secondo me, che spacca e divide la comunità internazionale, anche su Kosovo, lo dico proprio, che non ogni paese è storia a sé, non c'è paragone di come proporzione di drammaticità, tragicità e bilancio di vittime, però insomma è un bilancio che divide, non che unisce. Dopodiché ci mettiamo l'Iraq e l'Afghanistan negli ultimi anni, e mi pare che l'idea del decennio alle nostre spalle sia che anche per questo, di fronte a quello che avviene in Libia, quello che si potrebbe fare, forse senza dispiegare grandissimi dispositivi, però insomma dispositivi ci sono, tendiamo a non farlo, perché la lista di questi interventi secondo me è una lista che ci ha visto capaci di costruire davvero una cornice di interventi, di condivisione tra tre aree, dalle diverse tre aree del mondo, Stati Uniti, Europa, Asia e Cina, con modalità innanzitutto di valutazione delle situazioni di emergenza condivise. Io ho l'impressione che la risposta a questa domanda sia più no che sì. Intanto le informazioni sulla circolazione stradale e poi le tre considerazioni degli ospiti su quello che ho appena detto. Allora, cominciamo dal generale Cabigioso. Lei che dice, il bilancio di questi interventi che abbiamo alle spalle di tipo diverso ci unisce di più o ci ha reso meno sicuri di noi stessi e di come farle? Ma indubbiamente la domanda presenta punti contraddittori per la risposta. Forse in molte situazioni se non fossimo intervenuti ci sarebbe stato un disastro, in altre situazioni in cui già il disastro c'era non è che siano migliorate tante le cose, per esempio in Somalia, ma vediamo che l'essercene andati dalla Somalia precipitosamente nel 93 quando c'è stato il famoso caso del Black Hawk, gli americani hanno ritirato le loro forze eccetera, ha portato sì che questo paese oggi sia nelle mani delle corti islamiche e quindi un covo o un territorio in cui si annidano sicuramente dei nuclei terroristi che potrebbero essere anche una minaccia per il resto dell'Europa, per cui io sono abbastanza direi favorevole a pensare a una qualche forma di intervento per garantire una certa stabilità nel paese o un certo processo. Indubbiamente però chi lo deve fare, questo è la domanda del momento, e non c'è dubbio che le Nazioni Unite sotto questo aspetto hanno la responsabilità maggiore, perché sono l'unico organismo planetario che in qualche modo può dettare delle condizioni per l'intervento che debbano essere accettate da tutti. Quindi io mi rifarei alle Nazioni Unite, userei tutto il potere della nostra diplomazia anche occidentale per convincere tutti i paesi che ne fanno parte ad aderire a una certa linea di condotta che preveda anche un intervento da parte di chi potrebbe essere più gradito alla popolazione libica. Jean, secondo lei la lista complessiva, al netto di tutte le distinzioni, ha ovviamente ragione il generale Capigioso, di tutte le distinzioni, ci rende in grado di poter attivare meglio o peggio del 11 settembre, del pre e post 11 settembre, strumenti di intervento, di cooperazione tra aree del mondo diverse, con fedi diverse? Insomma, siamo più sicuri o meno quando succedono cose di questo genere? Ma a mio avviso gli interventi sono stati tutti dei flop giganteschi, cioè nel senso così che non hanno risolto la questione, anche per esempio io ho un'esperienza in Bosnia, sono stato circa 5 anni per l'implementation di Dayton, però l'intervento internazionale non è che abbia risolto la questione della Bosnia, non è che la Bosnia sia uno Stato, adesso vediamo un po' l'iniziativa della cancelliera Merkel come va. Nel caso della Libia l'unico intervento militare che mi sembrerebbe giustificato è un intervento militare per evacuare i cittadini europei, i cittadini occidentali, i tecnici ci sono anche 1500 cinesi che costruiscono la ferrovia, no, lì in Libia, e evacuarli verso la costa dove imbarcarli poi sulle navi. Altri interventi, guardi, mettersi un dito in mezzo alle lotte tribali è una follia. Intervento per proteggere i campi petroliferi, eccetto in Iraq dove il petrolio era uno strumento di guerra, no? Di consolidamento dell'occupazione americana oppure di resistenza all'occupazione americana, in nessun paese produttore di petrolio islamico sono stati attaccati le installazioni petrolifere, perché per loro il petrolio è un dono di Allah. E quindi di conseguenza rimarranno lì come saranno, e poi una volta che si ristabilisca la situazione, una certa stabilità in Libia, riprenderà l'afflusso dei tecnici occidentali che sono assolutamente essenziali per l'estrazione del petrolio, e le cose si rimetteranno a posto. Però meno che ci si mette le mani a fare il mio, meglio è. Bene, Gian è di un realismo assoluto. Io sono tra l'altro indirettamente testimone del fatto che l'unità di crisi Farnesina e il centro di coordinamento degli interventi posti in piedi dal governo in questi giorni, anche una rappresentanza di Confindustria per conto delle imprese italiane che avevano lì diverse centinaia di dipendenti in Libia, hanno tentato già da quasi due giorni di inviare una nave per garantire l'evacuazione del maggior numero in una sola volta di dipendenti di aziende italiane in Libia, e la cosa mi risulta, sia pur informalmente, essersi dovuta infrangere più e più volte di fronte al fatto che le autorità del regime libico, quindi nella parte ancora verso la Tripolitania, hanno regolarmente avvisato con durezza le autorità italiane che l'avvicinamento di una nave militare entro quello che loro, sapete, considerano i limiti territoriali delle loro acque, unilateralmente molto più esteso di quello del diritto internazionale, sarebbe stato considerato un atto bellico. E quindi, come vedete, in quel caso siamo con le braccia conserte. Anche da questo dipende il fatto che poi molti di coloro che sono rientrati in Italia con gli aerei in questi ultimi due giorni hanno lamentato il fatto di essere stati lasciati soli. Questo lo dico esclusivamente perché poi, come Confindustria, si è tentato direttamente di coordinare le operazioni insieme al Ministero degli Esteri e al Ministero della Difesa. Però la risposta di Tripoli era: se vi avvicinate nelle nostre acque territoriali, noi vi spariamo un missile. Detto questo, Vittorio Emanuele Parsi, conclusivamente, qual è il suo bilancio di questi interventi di interposizione a titolo vario diverso? Ci rendono più sicuri di farli insieme oppure più indecisi e quindi con più vittime sul campo mentre decidiamo? In una situazione come questa non ci sono, secondo me, le condizioni di poter pensare a una cosa del genere. Non è un caso che gli interventi di maggior successo di questi anni è quello di UNIFIL, Libano Meridionale, che è stato ottenuto attraverso l'accordo delle parti per garantire una tregua concordata e per garantire una evacuazione delle truppe israeliane. In questo caso io sono d'accordissimo con il generale Jean, cioè l'unica cosa che si può pensare, qualora la situazione dovesse degenerare, qualora non ci fossero autorità libiche in grado di controllare almeno i porti, o se le autorità si comportassero in maniera ostile nei confronti dei nostri cittadini, bisogna pensare a un'operazione di esfiltrazione dei nostri cittadini, anche protetta militarmente, della costa libica. Fine, cioè di più sarebbe un suicidio, e soprattutto non ha nessun, quello che succederà in Libia, come quello che succederà nel Medio Oriente, non dipende dai nostri interventi sostanzialmente. L'era dell'influenza occidentale su quest'area è finita. Bisogna prendere atto, punto e fine. La situazione è peggiore, ok, possiamo renderla noi migliore, possiamo contribuire a peggiorarla o avere dei danni maggiori. Io sarei molto attento, ripeto, non ho mai avuto timidezza. No, certo, rispetto agli interventi, no. Però l'esperienza ci deve indurre a usare il linguaggio del realismo. Come vedete, il bilancio finale della trasmissione è che, di fronte all'ipotesi di intervento, Cabigioso dice: ma chi lo farebbe mai? Perché gli occidentali NATO lì non possono. Chiediamo alle Nazioni Unite. Jean e Parsi, molto realisticamente, dicono: non è proprio il caso. Vedremo l'evoluzione nei prossimi giorni. Grazie ai nostri ospiti, grazie Franco Piantanida, grazie Alessandro Marco Turli e a chi in regia mi consente di andare in onda. Linea Generale Radio, appuntamento a lunedì.